Carissimi ascoltatori, buonasera. Iniziamo con la proclamazione del Credo o simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Questa sera commentiamo brevemente l'articolo del Credo, il terzo giorno risuscitò da morte, o come diciamo nel Credo della Messa, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e ci chiediamo che cosa significa, quali scritture, dove sta scritto. Gli studiosi della Bibbia e l'insegnamento ufficiale della Chiesa sono d'accordo nel vedere il punto di partenza di questa formula, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, nel libro del profeta Osea, al capitolo sesto, e leggiamo: «Venite, ritorniamo al Signore, Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà, Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà, dopo due giorni ci ridarà la vita». E il terzo giorno ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Il popolo ebraico ha un libro chiamato il Targum, che è la traduzione, attualizzazione, commento in aramaico della Sacra Scrittura, che era scritta in lingua ebraica. E questo Targum interpreta così il testo che abbiamo letto di Osea: ci farà vivere nel giorno delle consolazioni che devono venire, nel giorno in cui farà rivivere i morti, ci farà risorgere e noi vivremo davanti a Lui. Tra i tanti testi dell'Antico Testamento ce n'è un altro, il testo di Genesi 22,4, in cui si parla del sacrificio di Abramo. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Un commento rabbinico scrive: il terzo giorno, cioè quello nel quale la vita viene restituita ai morti, secondo quanto è scritto in Osea, il terzo giorno ci farà risorgere e noi vivremo davanti a Lui. Allora, fratelli e sorelle carissimi, questo terzo giorno non ha principalmente un significato di posdomani, ossia oggi, domani, poi il terzo giorno, 1, 2, 3, no. All'epoca di Cristo, quando si parlava del terzo giorno secondo le scritture, non si voleva intendere una semplice annotazione cronologica, ma un contenuto teologico. Il terzo giorno, secondo le scritture, significa il giorno della risurrezione generale, in cui Dio dà la vita a quelli che erano morti. Allora, dicendo che Gesù è risorto il terzo giorno, secondo le scritture, i discepoli non intendono dare una data, ma proclamano la loro fede, che potrebbe essere riassunta in questa ritrascrizione a uso nostro, secondo il nostro linguaggio. Il terzo giorno, secondo le scritture, è il giorno della risurrezione generale. E questo giorno della risurrezione di tutto e di tutti è già avvenuto, è già iniziato, con la risurrezione di Cristo, che, come ci insegna la Bibbia, Paolo Apostolo è il primogenito dei risuscitati da morte. E quindi anche la nostra risurrezione si è già realizzata in Gesù, e Gesù l'ha iniziata dentro di noi. Fatta questa doverosa spiegazione, dobbiamo accostarci all'evento della Pasqua di morte e di risurrezione seguendo tre tappe. Sono le stesse tappe che segue la Bibbia e che ha sempre seguito la Santa Chiesa. Allora, come primo momento, i discepoli gridano la loro fede in una forma molto riassuntiva, veloce, quasi in una parola. È il kerygma, e ne parleremo. Il kerygma è l'annuncio di uno che deve dare una notizia con il minor numero di parole perché gli altri sappiano cos'è capitato. Poi dopo, in seguito, quando avrà preso fiato, racconterà il resto, farà la cronaca e farà le sue considerazioni o ascolterà quelle degli altri. Si dice che dopo la battaglia delle Termopili un messaggero partì per annunciare la vittoria e dopo più di 40 chilometri fatti di corsa arrivò in città e gridò «Vittoria!» e stramazzò morto. Quella parola «Vittoria» è il kerygma, l'annuncio. I cittadini sappiano «Abbiamo vinto la battaglia noi». Poi arriveranno gli altri sopravvissuti, l'esercito, il generale, a raccontarci com'è andata e a fare una grande festa. Quindi il kerygma è l'annuncio, diremmo noi oggi, telegrafico, di un fatto importante. Per farvene subito un esempio, in tanti capitoli del libro degli Atti degli Apostoli troviamo questa frase, questo kerygma, questo annuncio telegrafico. Cristo è morto, è risorto e noi ne siamo i testimoni. Un secondo modo, una seconda tappa di annunciare il Vangelo usata dai primi cristiani, dagli apostoli, è questa. I discepoli di Gesù celebrano la loro fede e allora compongono il credo, compongono dei canti di chiesa, dei cantici, degli inni. La terza di queste tappe, i discepoli di Gesù raccontano la fede in un modo più diffuso, più dettagliato, e sono i racconti evangelici. Ecco allora, parliamo subito del primo modo, del primo annuncio, il kerygma. Negli Atti degli Apostoli sono riportati molti discorsi, 8 di Pietro, 9 di Paolo e 7 di altre persone. Leggendo questi discorsi possiamo vedere come i primi cristiani proclamavano la loro fede ed è bene che noi mettiamo attenzione a questo perché è proprio il caso di riscoprire quello che facevano i primi cristiani illuminati dallo Spirito. La maggior parte di questi discorsi sono rivolti ai giudei o ai pagani per indurli alla conversione. È qui che cercheremo di scoprire il messaggio essenziale, il kerygma. Ne proponiamo 5 di questi discorsi in cui, partendo da situazioni diverse, Pietro, Paolo e Giovanni dicono solennemente le stesse cose. E questi 5 discorsi li troviamo nel capitolo 2, 3, 4, 10 e 13. E vi ho già annunciato. E in sostanza, cosa dicono questi discorsi, questi messaggi? Cristo è morto, è risorto, noi ne siamo i testimoni. Questi documenti rappresentano quanto di più antico abbiamo nella letteratura cristiana. Il loro contenuto è assolutamente simile, il loro linguaggio è arcaico, ossia proprio dei primissimi anni della Chiesa. È un linguaggio infarcito con modi di dire aramaici, perché gli annunciatori del Cristo agli ebrei di allora parlavano la lingua aramaica e ci portano necessariamente ad ammettere che tali discorsi non furono poi riscritti, ricomposti, modificati da San Luca quando redasse gli Atti degli Apostoli verso l'anno 80, ma furono presi e tradotti da documenti aramaici trasmessi alla Chiesa dalla Chiesa delle origini e che Luca sostanzialmente non ha fatto altro che tradurli dall'aramaico in lingua greca. Abbiamo detto che la seconda tappa dell'annuncio della Chiesa è presentata dal credo e dai cantici. Allora, verso l'anno 45 d.C. si inizia nella Chiesa a mettere per iscritto i ricordi e gli insegnamenti orali degli apostoli. Coloro che dovevano andare ad annunciare il Vangelo dicevano dateci una traccia, oppure prendevano nota quando gli apostoli parlavano, in modo da avere un testo sicuro sul quale poter contare per annunciare il Cristo in una forma secondo l'insegnamento della Chiesa e non uscendo dal seminato. A questo materiale scritto attingeranno gli evangelisti e l'apostolo Paolo. Dobbiamo ricordare qui che i testi più antichi del Nuovo Testamento sono appunto le lettere di San Paolo, ha incominciato a scrivere verso l'anno 50. Il primo dei nostri Vangeli è quello di Marco e è stato scritto all'epoca della morte di Paolo, verso l'anno 67. Per quanto riguarda la risurrezione del Signore, ci limitiamo alle cose più tipiche e qui cominciamo a leggere i testi che affermano con forza e con chiarezza che Cristo è risuscitato da morte. Paolo aveva fondato la Chiesa di Corinto verso il 50-51. Nella primavera del 56 scrive a questa comunità: «Vi ho reso noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato, altrimenti avreste creduto invano. Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come ad un aborto. Attraverso l'espressione vi ho trasmesso, Paolo continua una tradizione, una trasmissione già fissata in un credo battesimale che l'Apostolo ha lui stesso ricevuto a Damasco in occasione della sua conversione, avvenuta probabilmente verso gli anni 34-35. Notiamo subito una cosa: che né Paolo Apostolo né gli Atti degli Apostoli descrivono la risurrezione, l'affermano come un fatto attuale, incontestabile, di cui essi vivono, da cui scaturisce la loro vita cristiana, per il quale muoiono martiri e di cui proclamano il significato partendo dalle scritture. Paolo dice: Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture dell'Antico Testamento, apparve a Cefa e quindi ai dodici, e poi dice anche che è risuscitato secondo le scritture. Allora, per la Chiesa degli Apostoli, per la Chiesa primitiva, importa una cosa sola: sapere attraverso l'annuncio degli angeli e quindi recepire per fede che Gesù è risorto. Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 10 scrive: se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. E nella prima lettera ai Tessalonicesi scrive: noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato, così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Nelle lettere degli Apostoli, nei Vangeli e nell'Apocalisse si trovano cantici composti dalle prime comunità, nei quali è chiaramente cantata la fede nella risurrezione di Cristo. Nella messa di oggi abbiamo sentito leggere dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 2, quel bellissimo inno a Cristo, che si è fatto uomo, si è fatto obbediente fino alla morte di croce, e per questo Dio Padre lo ha esaltato al di sopra di tutti. Ed ecco che noi leggiamo proprio questo brano che avete già sentito come seconda lettura della messa di oggi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale,

Allora abbiamo udito i discepoli annunciare la loro fede ai non credenti, a coloro che non ne sapevano nulla, e dicevamo che questo primo annuncio sintetico in forma telegrafica è chiamato kerygma dalla lingua greca. E abbiamo visto anche che i primi cristiani celebrano nelle loro comunità la loro fede attraverso proclamazioni di fede e canti che rivolgono a Cristo. Il centro di questa fede è sempre quello: Dio ha risuscitato, glorificato, fatto Signore questo Gesù che era stato crocifisso. La stessa fede viene espressa anche nei racconti evangelici. Qui non si afferma la fede in brevi formule, ma la si racconta, la si fa vedere, ossia dopo aver sentito l'annuncio della vittoria di Cristo che è risuscitato da morte, e ci si prende il tempo per raccontare, testimoniare più diffusamente l'avvenimento. Il racconto evangelico corrisponde al bisogno di una comunità già costituita che vuole saperne di più sul significato dell'evento. I racconti del Vangelo non dicono sugli avvenimenti più di quanto già sapevamo dalle brevi formule del kerygma, del primo annuncio. Essi lo dicono solamente in un altro modo e ne sviluppano il significato. Incominciano anche a sviscerare un po' quello che era stato detto in sintesi, cercando di capirlo meglio, di spiegarlo. Voi sapete che spiegare vuol dire distendere quello che prima era piegato, quindi spiegare più diffusamente. I quattro Vangeli seguono in ordine di tempo immediatamente le lettere di Paolo. Paolo era già morto quando la Chiesa ha incominciato a scrivere i quattro Vangeli. Il Vangelo di Marco è composto pressappoco nell'anno 67, è la data tradizionale. Il Vangelo di Luca tra il 70 e l'80, quello di Matteo verso gli anni 80 e quello di Giovanni negli ultimi anni del primo secolo. Nei Vangeli non c'è un racconto della risurrezione e noi siamo contenti, contentissimi che non ci sia, perché questa assenza del racconto della risurrezione è la migliore garanzia che i Vangeli non sono opera di falsari. Se noi oggi, visto quanto si inventa, sia a livello di libri, di stampa, di televisioni, dovessimo scrivere di nuovo i Vangeli o l'avessimo affidato a uno che fa di mestiere lo scrittore, il giornalista, probabilmente ci avrebbero infarcito il racconto con tante cose. Gesù incominciò a muovere la mano destra, poi la sinistra, poi aprì gli occhi, poi si chiese oibò dove sono finito, e si farebbe un romanzo. Purtroppo di questi romanzieri ce ne sono, ci sono decine di volumi per scrivere la vita di Cristo che i Vangeli hanno riassunto in pochissime pagine. Gli autori apocrifi sono coloro che hanno scritto dei libri mettendoli sotto un nome più famoso del loro. Quindi non sono falsi, bugiardi, sono persone che si nascondono sotto il nome di un altro per far leggere il suo libro. Sarebbe come se oggi io scrivessi un libro e mettessi che è scritto dal Papa Giovanni Paolo II o dal Cardinale Carlo Maria Martini. Lo leggerebbero tanti di più che se io mettessi il mio nome. Bene, gli apocrifi ci avrebbero sommersi con un'infinità di particolari, ma in realtà e per fortuna la risurrezione in se stessa non ebbe testimoni umani, è un fatto che conosce solo Dio Padre, lo Spirito e Gesù. Alcune persone andarono al sepolcro di Gesù il mattino di Pasqua e lo trovarono vuoto. Gesù Cristo era già risuscitato, quindi sono arrivati a cose già avvenute. E questo è il solo racconto comune ai quattro Vangeli. Andarono e trovarono il sepolcro vuoto. La tomba vuota di per sé non prova niente, perché Gesù Cristo potrebbe essere anche stato rapito da qualcuno. Non spiega proprio niente. ma rinvia al mistero, a una rivelazione di angeli che erano lì presenti nella tomba e che dicono: non è qui, è risuscitato. La fede nella risurrezione di Cristo non è frutto di un pensamento, di una riflessione, di una ricerca di gruppo fatta dagli apostoli, com'è sta storia, e proviamo, e a me sembra, a te sembra, alla fine hanno detto: ma vuoi vedere che è risuscitato per davvero? No, no, non ci sono elucubrazioni umane. L'annuncio della risurrezione di Cristo ci è stato dato da Dio, viene dal cielo, non viene dalla testa di nessun uomo. Dio si fa presente attraverso un angelo o due angeli vestiti in bianche vesti, che significa sono personaggi che vengono dall'aldilà, perché il vestito bianco è il vestito del paradiso, della vita eterna, i quali annunciano che Cristo è risuscitato. È Dio che ce l'ha detto, non l'abbiamo capito noi pensando, ripensando o dissertando. Certo, se ci fosse stato solo il sepolcro vuoto non avremmo mai avuto una fede nella risurrezione di Cristo. Questa fede nasce perché ci furono le apparizioni di Cristo. Non è più qui nella tomba, lo incontri vivo per la strada, si dice allora non è più lì ma è qui. Perché se avessero trovato il corpo morto nella tomba e poi l'avessero visto vivo per strada, avrebbero detto, logicamente, è un altro, perché lui è lì ancora morto nella tomba. Appunto, allora, se la tomba non fosse stata vuota, le apparizioni non sarebbero state credibili. Gli apostoli e i discepoli non hanno visto uno spirito evanescente, disincarnato, un fantasma, ma lui è realmente vivo. Lo leggiamo nei Vangeli. Gesù assicura i suoi discepoli, i suoi apostoli. Leggiamo dal Vangelo di Luca al capitolo 24. Gesù dice: guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Queste parole Gesù le ha dette dopo la sua risurrezione, apparendo alla sua comunità cristiana. Gesù Cristo invita Tommaso a fare la ricognizione delle sue cicatrici, vi ricordate? Tommaso, vieni qui, metti le tue dita nelle mie ferite, metti la tua mano qui nella ferita del petto, e non essere incredulo ma credente. Gesù risuscitato mangia insieme con i suoi cristiani, condivide il loro cibo. Lo si legge nel capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. È veramente presente nell'evidenza della sua realtà fisica. Non è un fantasma. L'hanno toccato. Toccatemi, è scritto qui. Guardate. Guardate le mie mani e i miei piedi. Perché guardate le mani e i piedi? Perché hanno ancora i segni della crocifissione, quindi sono i segni della mia identità di morto in croce che ora sono risuscitato. Diciamo allora che la risurrezione è tutto il contrario di un avvenimento inventato dai discepoli. I discepoli non avevano nessuna preparazione e diciamo anche nessuna intenzione di credere che un morto poteva risuscitare, che Cristo sarebbe risorto. Tale avvenimento della risurrezione si è imposto ai discepoli e alla Chiesa dall'esterno. Li ha convinti nonostante la loro incredulità. Voi leggete il Vangelo di Luca al capitolo 24 e trovate questa frase: ancora non credevano ed erano stupefatti. E nella finale del Vangelo di Marco si legge che Gesù, prima di staccare i piedi da questa terra per salire al cielo, rimproverò aspramente alcuni di loro lì presenti perché non credevano ancora che egli era risuscitato da morte. Tommaso rimarrà famoso fino alla fine dei secoli per la sua incredulità o mancanza di fede. Solo l'evidenza palpabile del fatto lo costringerà ad arrendersi. E se volete, andando oltre, Paolo sulla strada di Damasco ha tutto fuorché la fede quando il Signore lo atterra. Era un non credente che combatteva la fede in Cristo, che combatteva i cristiani, che si prodigava a perseguitare i cristiani, a portarli in tribunali, a incarcerarli e anche ad ammazzarli. Ricordate che era testimone, custode dei mantelli quando uccisero il diacono Stefano. Gesù ha imposto l'evidenza della sua risurrezione a persone che non credevano e che, vedendolo davanti a loro, incominciarono a dubitare delle loro certezze e della stessa evidenza. Rimasero increduli, quasi dicendo: non credo ai miei occhi. Proviamo a fare qualche applicazione di questa grande verità della risurrezione di Cristo. Gesù Cristo è risorto e noi ne siamo testimoni, noi cristiani, noi Chiesa. La morte è stata vinta e noi ne siamo testimoni. La morte è stata vinta con una vittoria reale, universale, definitiva. Cristo ha sconfitto la morte di tutti, perché la morte era una sola, la sconfitta per sé e per tutti. Cristo ha vinto la morte del mondo, la morte che faceva morire tutto e tutti. Ecco, allora incominciamo a sentire la drammatica importanza, la bellezza di questa realtà di fede, se ci crediamo veramente. Noi cristiani conosciamo un fatto che interessa anche tutti gli altri uomini non cristiani, perché questo fatto si oppone alla morte di tutti. Il cristiano deve fare soprattutto questo: correre in giro per il mondo e dire a tutti: guardate che la morte è stata vinta da Cristo, che è risuscitato per sé e risusciterà anche noi. Gesù Cristo ha vinto la morte degli uomini, Gesù Cristo ha dato la vita eterna a tutto il mondo, a tutto l'universo creato. La nostra fede è un fatto di portata mondiale, non è una storiella, non è una devozione, non è un qualche cosa di privatistico da tenere lì nel borsellino. Tutti gli uomini sono sottoposti alla morte, e qui credo che nessuno abbia dei dubbi. E a tutti fa piacere che uno, Cristo Gesù, ha trovato il rimedio, l'antidoto per tutti contro la morte. Ma capite che è una notizia sbalorditiva. È la notizia, direi, quasi l'unica per la quale vale la pena di spolmonarsi. Nei Vangeli leggiamo queste frasi di Gesù che sono bellissime e ci confermano nella fede. Gesù disse a Marta, sorella di Lazzaro: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. E Paolo scrive nella prima lettera ai Corinti: siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria sulla morte per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. E allora concludiamo con questa piccola osservazione, che però dovrebbe smuoverci, farci schizzare dalla nostra pigrizia, dal nostro stordimento. Se giunge alle orecchie degli uomini la notizia che la morte è vinta e che quindi noi non stiamo camminando verso la morte, ma verso la risurrezione e la vita del mondo che verrà, allora il rischio non è più rischio, il sacrificio non è più un suicidio, l'invecchiamento non è più una catastrofe, la vita non è più una prigionia in attesa della forca. Come per Cristo, anche per il cristiano e per ogni uomo di buona volontà che cerca Dio con cuore sincero, la morte è l'ora di passare da questo mondo al Padre, come scrive Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 13. Allora la morte è l'ora di passare da questa valle di lacrime, da questo mondo di morte, di disagio, di peccato, di continui problemi che si ripresentano anche in un modo stucchevole, noioso, sempre, tutti i giorni, anche negli ultimi della nostra vita. Lasciamo finalmente questo campo di battaglia per andare a stare bene, a stare in santa pace. La morte è l'ora di passare da questo mondo al Padre. di passare da questa vita con la V o la V minuscola, perché anche questa presente è vita, alla vita con la V o con la V maiuscola, la vita eterna, quella di Dio. Il credo continua con l'espressione «salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente». E qui vi pregherei di avere un po' di attenzione, non vogliamo dire delle cose sconcertanti, ma chiarire un pochettino che il nostro dire umano si presta a dei fraintendimenti quando lo applichiamo all'agire di Dio. Parlare, per esempio, di discesa agli inferi, di salita al cielo, significa di fatto collocarci nell'universo a tre dimensioni nel quale noi abitiamo, che è quello dell'esperienza immediata che noi viviamo. La Bibbia, che è scritta per gli uomini, usa questo modo universale di esprimersi, perché si parla così in Africa, in Asia, in tutte le parti del mondo. Allora, per la Bibbia, che usa i modi di esprimersi umani, il cielo è in alto, è il luogo dove abita Dio. La terra è il luogo dove abitano gli uomini. Gli inferi sono in basso, sono il luogo dove abitano i morti e i demoni, sottoterra, giù nell'inferno, come si dice. Di conseguenza, per visitare gli uomini, Dio, che abita in cielo che è in alto, discende per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. Poi, dopo essere morto e risuscitato, risale al cielo da dove era disceso. E il mezzo di trasporto di cui si serve Dio è la nube. La nube è il suo veicolo. Leggendo il racconto dell'ascensione di Gesù al cielo, a un certo punto si sente e una nube lo portò via dai loro sguardi, lo portò in cielo. Certamente noi dobbiamo vivere a questo mondo e con prudenza usare il linguaggio comune, se no non riusciamo a capirci. Noi continuiamo a usare queste immagini nel linguaggio corrente, senza però esserne schiavi e usandole con un minimo di intelligenza critica. Le nozioni di alto e di basso sono relative alla posizione dell'osservatore, di colui che parla, ma non hanno alcun valore in se stesso. Vi faccio un esempio comunissimo. Milano è a nord per chi sta a Roma, ma è a sud per chi sta in Svizzera. Si dice, uno a Roma dice Milano sta al nord, uno che parla a Ginevra dice Milano sta al sud, e allora dovrebbero litigarsi perché uno dice il contrario dell'altro, mentre hanno ragione tutti e due, penso che ne siate convinti. Lo stesso allora diciamo anche del cielo. C'è il cielo sotto il quale viviamo noi, guardiamo per aria, vediamo il cielo, è in alto. Però c'è anche il cielo degli antipodi, della parte esattamente opposta della terra da dove viviamo noi. E quello è in basso rispetto a noi, è sotto i nostri piedi, al di là della terra, dall'altra parte. Allora dovremmo dire che il cielo, una parte in alto e una parte, quella opposta a noi, è in basso. Di conseguenza dovremmo dire che Dio non è né in alto né in basso, ma è dovunque e al di là di tutto. Spero di non averli confusi con queste piccole annotazioni, ma perché non diventiamo dei partigiani della materialità delle cose e cerchiamo di spogliare un pochino queste espressioni da una forma che per qualcuno è quasi dogmatica. Dio sta su sopra le teste e i diavoli stanno sottoterra all'inferno. Io dico, fosse vero, almeno il diavolo non ce l'avremo qui tra i piedi, mentre il diavolo è qui. Ma per fortuna anche Dio è qui con noi. Solo due Vangeli, quello di Marco e di Luca, ricordano il fatto visibile dell'ascensione di Gesù. Leggo dal Vangelo di Marco: il Signore, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. E dal Vangelo di Luca, al capitolo 24, versetto 51, mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Quando diciamo e crediamo che Gesù glorioso è asceso al cielo dove siede alla destra del Padre, intendiamo dire che è entrato per sempre nel mondo spirituale nuovo, definitivo, inaccessibile per i nostri sensi e per la nostra immaginazione, ma un mondo reale, molto più reale del nostro mondo attuale, quello che vediamo e tocchiamo. E qual è questo mondo spirituale? Il mondo di Dio, il mondo della vita che verrà. San Pietro, il mattino di Pentecoste, aveva espresso in sintesi la fede pasquale. Leggo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2. Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Pietro e gli Apostoli davanti al Sinedrio affermano, e leggo dagli Atti capitolo 5, il Dio dei nostri padri che ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso appendendolo alla croce. Ripeto, il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra facendolo capo e salvatore per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E Paolo scrive agli Efesini, il Dio della gloria risuscitò Cristo dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e autorità, ossia al di sopra di tutti e alla pari con il Padre Eterno. Gesù di Nazaret abbandona la nostra condizione umana, terrena, mortale, per assumere, in qualità di uomo, la condizione divina e diventare simile a Dio. Allora, questa elevazione di Dio è salito al cielo. Consiste innanzitutto in questo. Un uomo, Gesù Cristo, ebreo, nato da Maria, vissuto in Palestina 2000 anni fa, che ha fatto il mestiere di carpentiere, falegname, lavoratore, un uomo morto su un patibolo sulla croce e risuscitato, secondo le scritture, è assiso alla destra del Padre in piena uguaglianza con Dio Padre ed è Signore Dio come Lui. Dice, ma ci è salito come Dio? L'umanità l'ha abbandonata qui. No. È disceso dal cielo come Dio ed è risalito come Dio e uomo, nato 2000 anni fa da Maria Vergine, e che resterà uomo in eterno per sempre. Per Gesù risorto non esistono più limiti di tempo, di spazio. Un uomo della nostra razza, sottoposto a tutte le condizioni della nostra realtà umana, con il suo trionfo sulla morte acquista le incalcolabili dimensioni dell'universo, la pienezza inesauribile e senza limiti di Dio. Egli, quest'uomo Gesù, è ripieno di Dio e riempie tutte le cose di sé stesso, che è Dio e uomo risuscitato, presente dovunque. Gesù Cristo, che mentre era uomo in Palestina, era presente solo lì dove lo si vedeva, con la sua risurrezione ha avuto il dono della ubiquità. Anche come uomo con il suo corpo vero, reale, è presente in tutti i punti dell'universo. Ne volete una piccola dimostrazione di fede, ovviamente non scientifica? Noi entriamo in una chiesa e diciamo, nel tabernacolo è presente il Signore Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. Questo lo diciamo per tutte le chiese presenti sulla faccia della terra, sono centinaia di migliaia. Allora Cristo, anche fisicamente, con il suo corpo e il suo sangue, è presente dappertutto. Tanto è vero che in ogni parte del mondo oggi chi è andato alla comunione si è sentito dire questo è il corpo di Cristo, questo è il sangue di Cristo, mangia, bevi. Gesù non rifiuta il suo corpo, ma lo trasfigura e lo divinizza in pienezza e anche i nostri corpi non sono destinati ad andare sottoterra e a disfarsi, ma a diventare i corpi risuscitati perché l'uomo è stato creato da Dio per essere risuscitato e per vivere eternamente da uomo con il corpo in paradiso. Ecco, allora Gesù non rifiuta il suo corpo, lo trasfigura, lo divinizza, e proprio perché lo divinizza lo fa diventare presente dappertutto come Dio. In tal modo diventa infinitamente libero ed è presente ovunque. La risurrezione e ascensione rende Gesù realmente presente a tutti gli uomini suoi fratelli. Il Signore quindi fu liberato non dalla materia, dal corpo, ma dai limiti terreni della materia e del corpo, come saremo liberati noi il giorno della risurrezione e della vita in paradiso. Cosa vuol dire essere liberati non dalla materia ma dai suoi limiti? Gesù Cristo risorto non ha più bisogno di mangiare, di bere, di respirare, non ha più bisogno di un cuore che fa circolare il sangue nelle sue vene, non sente più caldo né freddo. Tutte queste cose noi che siamo ancora al di qua della morte e della risurrezione le sentiamo, e come le sentiva anche lui. Ciò che è accaduto a Cristo accadrà a tutta l'umanità, quindi a me, a voi e a tutti. La sua risurrezione e ascensione al cielo è annuncio e anticipazione della nostra risurrezione e della nostra ascensione al cielo. Leggo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 2. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i nostri peccati, ci ha fatti rivivere in Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù. L'ascensione non è evasione dai drammi vissuti dai nostri fratelli, non è contemplazione dei bei panorami teologici fine a se stessi, no. Questo Cristo che è diventato presente dappertutto, chiamiamolo un Cristo universale, è presente in me e chiede il mio cuore, le mie braccia, per continuare a servire e a salvare gli uomini di oggi. Abbiamo ricordato in questi giorni Madre Teresa di Calcutta. Cristo risorto, salito al cielo, è stato presente in una forma splendida, particolare, vivacissima in questa donna, e attraverso il suo cuore e le sue mani ha servito e salvato l'umanità. I cristiani devono essere i testimoni di una promessa che fa nascere cose nuove nella storia. Guai a quei cristiani che sono sempre addormentati, non si entusiasmano mai o sono ripetitivi di cose sorpassate, quindi barbose, tediose. Che significa i cristiani devono essere testimoni? Testimoni vuol dire operatori, gente che, convinta di una cosa, si tira sulle maniche, si muove e lavora. Ricordiamoci, non nascerà niente di nuovo se non attraverso l'impegno qui nel tempo presente degli uomini in favore della giustizia e della pace. Ma fa tutto Dio? Non è vero. Dio fa la sua parte e la fa sempre e la fa benissimo. La nostra la dobbiamo fare noi, con l'aiuto di Dio, ma Dio non la fa al posto nostro. L'ascensione ci rinvia quasi brutalmente alla terra e ai suoi urgenti bisogni. Coloro che il cristiano non è uno che sta a guardare per aria dicendo «Cristo è andato lassù, io fisso gli occhi verso il cielo e passo la vita guardando se spunta qualcuno, qualcosa». No. Dici, ma questo è un tuo parere. No, lo dice la parola di Dio negli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, versetto 11, quando Gesù scomparve portato via dalla nuvola, apparvero due angeli in bianche vesti che dissero agli apostoli e a quelli che erano lì con loro: perché state a guardare il cielo? E li sollecita ad andare a evangelizzare il mondo, perché Cristo tornerà e renderà conto di quello che abbiamo fatto concretamente. Gesù il glorificato diventa il difensore efficace di qualunque uomo oppresso. Non è andato in paradiso per non vedere più le miserie della nostra terra. È qui presente in noi cristiani che dobbiamo essere gli occhi di Cristo e dobbiamo vedere, dobbiamo essere la lingua di Cristo che annuncia nuovamente la bella notizia della salvezza, il cuore di Cristo, le mani di Cristo, i piedi di Cristo, per muoverci, non per dormire, per rimanere lì inoperosi. La Bibbia ci presenta Dio che libera dalle oppressioni di ogni genere il suo popolo in questo mondo. La storia del popolo ebreo, lo ricordate, comincia con un'esperienza di liberazione sociale e politica di cui Dio prende l'iniziativa e la direzione, diciamo. Libera dalla schiavitù degli egiziani i discendenti di Abramo e li conduce a casa loro nella terra promessa. Il Signore è colui che ha fatto uscire il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto e l'ha portato alla libertà. Quindi anche la libertà portata da Cristo in terra non è solo la libertà spirituale dal peccato. È sì, principalmente quella, lo dice il Vangelo, egli salverà il suo popolo dai suoi peccati, per darci la conoscenza della salvezza che consiste nella remissione dei peccati. Quindi, prima di tutto, Dio ci libera dalla morte dell'anima, dalla morte eterna, dal demonio, ma ci libera anche da tutte le forme di schiavitù. E i cristiani devono impegnarsi e per l'una e per l'altra cosa, che poi in definitiva fanno un tutt'uno. Dio ama l'uomo e fa alleanza con lui e pretende che quest'uomo sia rispettato. E quando vediamo che l'uomo non è rispettato, dobbiamo intervenire, perché Cristo è intervenuto e interverrebbe ancora oggi se fosse qui. È qui in noi e interviene attraverso di noi. Dio ama l'uomo a tal punto perché è suo figlio, perché ogni uomo è una cosa sola con suo figlio Gesù, perché per ogni uomo Dio ha un solo progetto, una sola idea da realizzare. Sentite, Dio per ogni uomo vuole questo: risuscitarlo, glorificarlo, divinizzarlo, farlo sedere alla sua destra in Cristo e con Cristo. Sono dei traguardi splendidi, infiniti. Fratelli, sorelle, non perdiamoci nelle scemenze di tutti i giorni quando abbiamo come scopo della vita, come scopo del nostro camminare con impegno, mete così radiose, raggianti di vita e di luce. Dio è liberatore degli oppressi e invita il suo popolo a imitarlo. Datemi una mano. Io vi ho liberati, adesso mi date una mano a liberare gli altri. Le pratiche religiose, il culto, sono cose secondarie. Dire questo può irritare qualche prete, qualche praticante, dicendo: allora qui la gente non va più in chiesa, non fa più le preghiere. Non è questo il problema. L'ha detto Dio che le pratiche religiose e il culto sono cose secondarie. Leggetevi Isaia capitolo 1, versetti 10-20. Leggetevi, se volete, Isaia 58, versetti 6-10. Ve ne leggo io un pezzetto. Dio dice: non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo? Anche Gesù, quando nel Vangelo di Matteo dice: se per caso sei in chiesa e stai offrendo il tuo dono davanti all'altare e lì ti viene in mente che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Vai prima a riconciliarti con tuo fratello e dopo torna. Solo allora la tua offerta sarà gradita a Dio. Thank you. Stiamo parlando dell'ascensione di Gesù al cielo e vorremmo sottolineare che l'ascensione non è Cristo che se ne va fuori dalla terra, se ne sta in paradiso e ci gira le spalle. Cristo è passato dalla morte alla vita ed è entrato nel mondo definitivo di Dio come uomo. Ma è qui, perché Dio è qui, non esiste un altrove. Ricordate all'inizio della vita pubblica di Gesù, quando inaugura la sua missione, nel Vangelo di Luca, capitolo 4. Gesù dice: «Lo Spirito del Signore è sopra di me e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Gesù ha messo mano a questa lotta di liberazione contro l'oppressione dei poteri e in primo luogo contro la malvagità dei nostri cuori. E tutte le nostre manifestazioni esterne nascono da dentro, la radice è nel cuore, è lì il bene o il male in radice. Molti di noi ancora oggi, e non intendo fare politica, molti di noi sono ancora affetti da cecità. Non vedono negli avvenimenti di liberazione dell'uomo la mano di Gesù Cristo liberatore. A noi sembra che le rivoluzioni siano state soprattutto di sinistra. Stai attento che ti prendono per uno di sinistra, un catto comunista. E allora si sta a dire: ma il cristiano è di destra, è di sinistra, è di centro. Il cristiano non è né di centro, né di sinistra, né di destra. Il cristiano è al di sopra di queste cose, perché Cristo è al di sopra di queste cose e nello stesso tempo è impegnato profondamente in queste cose. Gesù, figlio di Dio incarnato, ha condotto questa battaglia senza staccarsi dal contesto umano e storico in cui egli si è trovato a vivere. Ha guarito i malati, ha nutrito gli affamati, ha lottato contro un mondo molto concreto di oppressori. Pensate alle sue invettive contro gli scribi, i farisei, contro Erode. Lui stesso ha conosciuto la sofferenza, l'ostilità, la morte, dopo aver subito due processi. L'uno più ingiusto e più falso dell'altro, un processo religioso in cui è stato condannato come bestemmiatore di Dio e un giudizio politico, quello dell'impero romano. Gesù ha lottato per spezzare la spirale infernale dell'odio, ha invitato al perdono e all'amore. E guardate che è qui il succo di tutto. Le vere rivoluzioni consistono nello smettere di odiare e nell'incominciare ad amare, e ad amare sempre e solamente ad amare. Le altre sono tutte barzellette se non c'è un cambiamento profondo del cuore che smette di produrre odio e incomincia a produrre amore, perché l'odio fa morire, l'amore fa vivere. Nella lotta per l'uomo il perdono e l'amore sono le uniche armi che Cristo ci ha messo in mano. Noi dobbiamo lottare fino allo stremo delle forze, ma senza odio nei confronti di chiunque. L'odio genera odio, come i gatti generano gatti e i cani generano cani. Se l'odio vince, si ricomincia sempre da capo, e la storia ce lo dimostra, e anche la nostra storia e la cronaca contemporanea ce lo dimostra. Che succede? Che gli oppressi di ieri, quelli che erano incarcerati, che erano il partito perdente, diventano poi gli oppressori di oggi, per cui poi si assiste a delle cose che hanno del ridicolo, del paradossale. Quelli che ieri venivano ammazzati perché erano i nemici, oggi che vanno al potere sono gli amici che ammazzano quelli che ieri ammazzavano e che a loro volta diventano i nemici. E allora si cade effettivamente nel ridicolo, era sbagliato prima ed è sbagliato adesso. La clessidra viene ribaltata, la polvere che era sotto incomincia a scendere di nuovo da sopra, in basso, ma in concreto nessuno viene liberato, salvato, amato. Cosa ce ne facciamo di questi disastri che servono solo per ammazzare milioni di persone? E questa è la civiltà, la dignità degli uomini, la politica. Queste sono schifezze infinite. Gesù non è venuto a innalzare barricate, ma a buttarle giù. Leggiamo nella lettera agli Efesini, capitolo 2, egli è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia che c'era tra ebrei e gli altri popoli del mondo e di tutti i popoli del mondo con Dio. Gesù non vuole spade, l'ha detto chiaramente, ma rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Non vuole nemmeno legioni di angeli per la sua difesa personale. Scopo del suo grido contro la schiavitù dei poveri e l'oppressione dei potenti non è quello di ottenere con la potenza che Dio spazzi via tutti i profittatori e tutti i malvagi dalla faccia della terra. Non ammazza nessuno, neanche i cattivi. La posta in gioco della sua vita e della sua morte è che l'uomo, sfruttato o sfruttatore che sia, vittima o carnefice, quindi ogni uomo, sia liberato dal proprio odio, perché alle volte odia quel tale che ammazza e anche quello che viene ammazzato odia il suo aggressore, il suo uccisore. Sono due che pure in situazioni diverse si odiano cordialmente. Ora diciamocelo fuori dai denti, nessuna violenza, nessuna dimostrazione di potenza libera l'uomo dall'odio. Al contrario, più lo opprimi con la tua potenza e con la tua violenza, e più quello ti odia. Allora qui si peggiora la situazione. Un Dio che non fosse diventato uomo non poteva perdonare agli sfruttatori delle lacrime e dei sudori degli uomini, doveva punire e vendicare. Il vero Dio però è diverso. Dio, di fatto, appartiene al numero degli schiacciati dalla società, anzi è il loro Signore. Gesù è il re dei perseguitati, degli schiacciati, degli affamati, dei perseguitati. Per questo Dio, Gesù, può perdonare e aprire la via della riconciliazione e della pace. E Gesù, ricordiamocelo, non ha perdonato in astratto. Solo colui che è stato torturato può perdonare il torturatore, ed egli l'ha fatto. Solo colui che fu oggetto di odio può manifestare l'impotenza e la sconfitta dell'odio perdonando, perché l'odio lo si vince con l'amore, con il perdono, non con altro odio. Il perdono dato da Gesù nel momento della sua morte è un perdono carico di tutta la storia dello stesso Gesù. Riassume l'atteggiamento totale della sua vita. Ricordate quella bellissima frase: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Egli era stato perseguitato, calunniato, percosso, disprezzato, ridicolizzato, condannato ingiustamente e moriva come un criminale, un bestemmiatore, quindi totalmente spogliato della sua onorabilità e del suo buon nome. Dio Padre fa proprio questo perdono di Gesù e costituisce Gesù come Signore Giudice. Giudice però secondo le sue categorie, non quelle che abbiamo in testa noi, e quante volte parliamo del giudizio di Dio con le categorie stupide che abbiamo in testa noi. Quali sono le categorie del giudizio di Dio? Amore e perdono, naturalmente. Volete un esempio del giudizio di Dio? Lo si legge nel Vangelo di Luca. Gesù dice due frasi che riassumono il giudizio di Dio sul mondo. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Dio ha già giudicato il mondo perdonandolo. E quell'altra frase, che è rivolta a uno, ma che è per tutti. Oggi tu sarai con me in paradiso. Questo è il giudizio di Dio. È un giudizio di amore, di salvezza, non di condanna. Solo il perdono apre sul futuro, sia per chi è perdonato, sia per chi perdona. Un futuro comune all'uno e all'altro. L'uomo che si chiude nell'odio vuole distruggere colui che odia, vuole eliminarlo e viene fuori spontaneo, sapete? Crepa. Solamente il perdono si contrappone alla logica della guerra, dell'odio, di tutte le morti e le distruzioni. Nel momento del perdono scaturisce la speranza che chi viene perdonato capisca la sterilità della propria logica di morte, ma cosa continui a distruggere, ad ammazzare. Gesù non prega Dio perché stermini i suoi nemici, se no si sarebbe messo in questa logica, ma inaugura un futuro luminoso per lo stesso peccatore nemico che lo ha crocifisso, perché dimostra con il suo perdono che nessuno, neanche i suoi crocifissori, quello che l'hanno sbeffeggiato ai piedi della croce, è chiuso definitivamente nella morte e nella condanna. Perdona tutti e prega il Padre perché perdoni tutti e salvi tutti e porti tutti in paradiso. Dio non può diventare una pezza giustificativa degli odi di parte, di razza, di classe, e nemmeno può essere preso come garante di una giustizia implacabile. Dio vuole che noi odiamo i nemici di Dio. E quando te l'ha detto? Dio vuole che noi andiamo a bastonare i peccatori. E quando è che ti ha mandato a fare questo mestiere? Noi dobbiamo andare a estirpare il male che c'è nel mondo e nella Chiesa. E chi te l'ha ordinato? Leggi la parabola del buon grano e della zizzania, dell'erba cattiva. E i contadini dicono al padrone: vuoi che andiamo a sradicare le erbacce cattive? Dio dice: no, lasciate stare, perché voi mi sradicate l'erba cattiva insieme con l'erba buona, lasciate che crescano tutte e due, poi alla fine, il giorno del giudizio, ci penserà Dio a dire: questo era buon grano e questa era erba cattiva. Dio può essere invocato solo quando il perdono è già stato concesso in misura piena, definitiva e senza condizioni. Dio dice: tu perdoni, ti do io la forza di perdonare, ma tu perdoni sempre, tutto e comunque. Dopo possiamo parlarne. San Pietro nella prima lettera scrive delle cose splendide. Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi. E soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia, ossia a Dio. Colui che fu ingiustamente crocifisso e che ha perdonato è lo stesso che è stato intronizzato alla destra di Dio Padre. E non si interpreti tutto questo come debolezza, come un ritorno alla rassegnazione, al vittimismo. Povere vittime dello strapotere politico, religioso, rassegnatevi, anche Cristo ha detto: state lì sotto i piedi. Assolutamente no. Questo crocifisso che è Dio e non muove un dito per difendere se stesso è più forte dei vincitori di tutte le guerre. Perché? Perché l'odio è il massimo della debolezza. Scriviamocelo in testa. L'odio è il massimo della debolezza e l'amore è il massimo della forza. Scusate, a odiare sono capaci tutti, a perdonare, ad amare, a riconciliarsi. Non è capace quasi nessuno. È più facile odiare che amare. È più facile ammazzare che lasciarsi ammazzare. Ci vuole più coraggio a lasciarsi ammazzare che ad ammazzare un altro. Ebbene, concludiamo, fratelli. La risurrezione e ascensione di Gesù è la ratifica, la firma, il timbro di Dio, attraverso la quale abbiamo la certezza che l'amore e il perdono, quelli manifestati da Cristo, sono la via giusta e sono l'arma vincente. Perché? Perché solo l'amore avrà l'ultima parola. E voi chiederete ancora: e perché? Perché Dio è amore.